Cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Io stessa lo racconto, lo vedo e penso che non è possibile essere sopravvissuti a cose simili. Vedo e sento. Ma voi vedete. Sono parole di Ginette Colinca, autrice insieme a Marion Ruggeri del romanzo Ritorno a Birkenau, pubblicato in Italia da Ponti alle Grazie con la traduzione di Francesco Bruno. È un piccolo libro, sono appena 90 pagine, in cui Ginette Colinca, ebrea francese, racconta la sua storia. Era il 16 aprile del 44, quando lei, 19 anni, fu deportata nel campo di Birkenau, insieme al padre, al fratellino e al nipote. Fu l'unica di loro a sopravvivere. Il romanzo racconta la vita nel campo di concentramento e lo fa con uno stile secco e asciutto. Si racconta anche il dopo Birkenau e quindi il ritorno a Parigi dalla madre e dalle sorelle che per fortuna non furono deportate e quindi gli amici, vicini di casa che andavano a trovarla per vedere la deportata. Ma nessuno, racconta Ginette Colinca, mi chiedeva come stavo. Per decenni Ginette non ha mai raccontato a nessuno quanto aveva vissuto a Birkenau. È stato grazie a Steven Spielberg che ho cominciato a parlare, scrive nel libro. Dopo il film Schindler's List, il regista infatti aveva creato una fondazione, mandato alcuni giovani in giro per il mondo per raccogliere appunto le testimonianze dei sopravvissuti. E così Ginette ha iniziato a parlare e da anni accompagna le scolaresche in visita nei campi di concentramento. Leggendo Ritorno a Birkenau emerge con forza il senso di spaesamento, di inconsapevolezza che accompagnava molti deportati, a iniziare dalla stessa Ginette Colinca. Insomma, non avevano la minima idea di quello che li aspettava. Eh bien, quand tous les juifs qui étaient arrêtés, et même ceux qui n'étaient pas, on savait que si on était arrêté un jour. Gli ebrei in Francia a quell'epoca, tutti gli ebrei sapevano che se mai dovessero venire arrestati, anche chi non era ebreo ci finiva in mezzo naturalmente, si sarebbe finiti in campo di lavoro. Questa era la voce che era stata sparsa. E dunque io, che avevo solo 19 anni, ma per certi versi forse ero persino più giovane della mia età, come diciamo mentalità, immaginavo una bella fabbrica con accanto qualche baracca, con qualche alloggio per i lavoratori. Del resto, a Drancy, il campo di raccolta degli ebrei francesi, dove siamo stati rinchiusi prima di essere diciamo instradati verso Birkenau, io, che avevo allora 19 anni, ma mio padre, che ne aveva 61, il mio fratellino più piccolo, che ne aveva 12, e mio nipote, di 14 anni e mezzo, rinchiusi lì, vedevo che c'era gente che aveva delle caratteristiche che non si prestavano al lavoro, però non volevo capire. Mio padre secondo me aveva perfettamente capito perché mai arrestare e tenere lì delle donne, dei bambini di pochi mesi, dei giovinetti o degli anziani magari in sedia a rotelle. E dunque io gli raccontavo come la vedevo io. Papà, tu no, non potrai lavorare come me e come Jojo, è il nome del mio nipotino, perché sei troppo anziano per lavorare, quindi per te né fabbrica né campi, ma noi sì. Beh, certo, se sanno che tu sai cucire a macchina, che sei sarto, magari, chissà, ci sarà un laboratorio di sartoria, potrai fare qualche cosa. Mio padre no, io credo che non la pensasse come me, infatti non mi rispondeva mai, ma pensava tra sé e sé perché mai dovrebbero tenere qui e dar da mangiare a una donna anziana in sedia a rotelle piuttosto che a un neonato, eccetera. Così io mi figuravo delle cose e lui tutte altre. C'erano vecchi, c'erano bambini, c'erano i mutilati della grande guerra a Drancy, prima ancora di andare a Birkenau. Che utilità potevano avere per i tedeschi quelli? Mio padre lo sospettava, non è lì che andremo. Credo che lui si facesse delle domande che io, troppo giovane, non mi facevo, mi lasciava parlare. Io invece credevo a quello che ci avevano fatto credere i nazisti. A proposito della sua ingenuità, c'è un momento molto drammatico della sua vita che lei racconta in questo libro. Il momento in cui è arrivata a Birkenau e lei vede che ci sono dei camion per i più stanchi, così dicono i tedeschi. E quindi lei spinge suo padre, suo fratellino a salire su quei camion, convinta di, diciamo, alleviargli le sofferenze. E invece saranno destinati a morte immediata. Questo immagino sia stato un grande senso di colpa con cui lei ha dovuto convivere. C'est juste, c'est un remords qui est encore là. j'ai toujours eu, je me suis toujours sentie responsabile de leur mort. Ha ragione a parlare di senso di colpa, è un rimorso che mi porto ancora dentro, sono 75 anni che questa questione mi lavora dentro, mi sono sempre sentita responsabile della loro morte, quando in un certo senso non si può dire che sia così, perché come dicevo al campo entravano assolutamente soltanto coloro che erano in grado di prestare un lavoro, di prestare un servizio, per le donne l'età era quella compresa fra i 15 e i 45 anni, per gli uomini era quella compresa fra i 15 e 50 anni, mio padre aveva 61 anni, era chiaramente fuori da ogni gioco per quanto riguarda, diciamo, la possibilità di lavorare, mio fratello era troppo piccolo e in fondo anche mio nipote che aveva 14 anni, quindi quasi un'età sufficiente, ma insomma direi che tutti e tre erano in età di essere costretti a salire su quel camion. È che io in più li ho incoraggiati, per, come diceva lei, per risparmiare loro una sofferenza. Vede, però il punto è questo, che io so bene che, e sapevo che ci potevano essere delle eccezioni, rare ma forse delle eccezioni, allora mi tormento a dire, ma allora se però il comandante avesse lasciato magari lavorare mio nipote, e allora se io non avessi detto quelle parole, sono 75 anni che vivo con questo rimorso, metà di me dice no, non sei tu la responsabile, e l'altra metà dice sì, è colpa tua. Me disant mais non, t'es pas responsable, je me dis si, Ginette, c'est toi qui l'auras dit. Naturalmente non mi sarei mai permessa di farle questa domanda, ma è chiaro che emerge dal romanzo, da quello che lei ha scritto, il senso di colpa. Non è una mia affermazione, ma è quello che ho visto nelle parole che lei ha scritto. Ci sono molte cose che mi hanno colpito di questo romanzo. Lei racconta di quando le è stata tatuata la matricola 78599 e scrive: «Pare che ci sia chi urla di dolore, di sorpresa, di spavento. Io non so nemmeno se fa male, per come è forte e cocente in me la vergogna di essere nuda. Non percepisco nient'altro». Insomma, in quel momento era più forte la vergogna della nudità, del dolore fisico. No, no, il y a la honte, oui, mais la honte de la nudité. Je n'ai rien ressorti du tatouage parce que quand on est arrivé. No, io di quel momento del tatuaggio del numero di matricola non ho sentito proprio niente. L'unica cosa che mi faceva stare male era la vergogna di essere nuda. Quando siamo arrivati al campo ci hanno fatto entrare dentro una sorta di sala e ci hanno fatto spogliare completamente. Guardi, io sono stata educata in una famiglia dove il pudore era al primo posto. A casa, fin tanto che anche fino a prima che nascesse il nostro fratello piccolo, eravamo solo fra ragazze, con mia madre, solo donne. Non ho mai visto nessun'altra nuda io. Non so nemmeno, si immagini, se in quel momento ci guardassero per esempio dei soldati, perché comunque io tenevo per lo più gli occhi chiusi dalla vergogna spaventosa di sentirmi nuda. Tenevo gli occhi o chiusi o fissi sulle dita dei piedi. Non avevo mai visto un corpo di donna che non fosse il mio. Non avevo mai visto certi ventri sformati dai troppi parti o certi seni cadenti. Io li scorgevo appena, perché tenevo per lo più gli occhi chiusi. Ci portano davanti a un tavolo. Ci sono due donne, una seduta accanto all'altra, una tiene il registro e l'altra che cosa fa? Chi lo sa? Non mi ricordo, non ricordo neanche se mi abbia rivolto qualche parola in francese. Io avevo le braccia occupate, una con la mano mi coprivo il sesso e con l'altra cercavo di coprirmi i seni, e quella vicino alla donna che scriveva sul registro mi strappa il braccio che mi proteggeva il petto e ecco che mi trovo tatuata, ma non ho sentito niente io, non ho sentito né dolore né la vergogna di ricevere questo segno che si imprime nelle carte. No, io ero morta dalla vergogna della nudità, e mentre so benissimo che altre mie compagne hanno accettato quella nudità, quello che magari le ha fatte andare fuori di senno è stato il venire rasate. Tutti i peli del corpo, capelli e altri peli, tutti portati via, un numero della carne che non va più via. Mi ricordo le compagne che strofinavano per vedere se veniva via e quello non se ne andava via. Loro hanno forse, come dire, vissuto meglio l'esperienza della nudità. Per me quella è stata tremenda, molto più forte, molto più penosa che l'esperienza del tatuaggio. J'ai rien ressenti moi pour le tatouage, j'ai rien ressenti, non la honte d'être nu, ça oui. Ci sono naturalmente in questo libro scene molto drammatiche, molto dolorose, molto violente, di sofferenza, scene però che sono vita vera, è stata la sua vita e la vita delle persone che erano con lei nel campo. Questo è un libro che cerca anche di sfatare un po' di luoghi comuni su quella che è la rappresentazione iconografica della Shoah. Lei per esempio dice: non è vero che noi potevamo indossare i camicioni a strisce, quelli erano riservati alle prigioniere politiche, noi donne ebree non eravamo neanche degne di quei camicioni, e quando vedo questa rappresentazione mi infastidisco. Ecco, ci sono anche altri luoghi comuni legati appunto alla Shoah che la infastidiscono, insomma c'è una rappresentazione falsata secondo lei anche della Shoah? Allora, ça, la question du vêtement, ça c'est sûr. Tous ceux à qui je pose la question comment vous voyez les déportés habillés, questa degli abiti, questa delle divise da carcerato, sì, è proprio un luogo comune che va sfatato completamente, perché come lei appunto ricordava, quelli erano destinati, queste sorte di pigiami a righe erano destinati soltanto ai politici, ai detenuti politici, ai membri dell'opposizione. A noi ebrei non ci toccavano quelli, non avevamo diritto. E un'altra cosa importante da far notare, che solo per gli ebrei valevano quelle famose selezioni appena arrivati i treni, per i politici, i criminali comuni, quelli che facevano il mercato nero, quelli che magari erano stati presi in ostaggio, non c'era la selezione, giovani, vecchi, infermi e sani, al campo c'entravano tutti e non venivano assassinati prima ancora di entrare nel campo. Gli ebrei sì, se non erano in grado di prestare un servizio utile, se non erano in grado di lavorare, se non erano donne comprese fra i 15 e i 45 anni, come ho detto prima. Per noi valeva la selezione, per i politici e gli altri, diciamo, arrestati e deportati dai nazisti non c'era problema, tutti entravano al campo, certo, sarebbero morti anche loro, ma non assassinati come noi. Ma non va pas les assassiner, ils mourront de leur propre mort. J'ai oublié de Inoltre, molto importante ricordare per quanto riguarda la differenza di trattamento fra i, diciamo, i politici, dunque i resistenti, e gli ebrei, è che uno poteva avere commesso ma chissà qualche cosa, per esempio essere stato comunista, aver fatto il mercato nero come dicevo prima, avere avuto, diciamo, delle pendenze con la giustizia, ma quando lo andavano a prendere mica gli prendevano i figli, magari i neonati, mica li prendevano le madri, le sorelle, i vecchi, i nonni, i vecchietti in sedia a rotelle, prendevano solo lui o solo lei e basta. A noi ebrei, quando ci venivano ad arrestare, ci prendevano tutti. Giovani, vecchi, brutti, belli, sani, infermi, tutti. Se proprio vogliamo poi ricordare uno dei vantaggi d'essere ebrei, è il fatto che a noi non ci torturavano per farci confessare, come facevano con i membri della resistenza, che venivano sottoposti a sevizie per sapere chi aveva impartito loro la formazione politica, chi fossero i loro compagni di lotte. No, a noi non ci torturavano, noi in quanto ebrei, diciamo che ci torturavano in un altro modo. Ecco. On nous a torturé sur place. C'est un avantage. Lei a un certo punto scrive: io stessa lo racconto, lo vedo e penso che non è possibile essere sopravvissuti a cose simili. Vedo e sento. Ma voi, voi vedete? A chi si rivolge con questo voi? Je crois parler de tout. De tout. Par exemple, vous avez faim. Intendevo dire tutto. Tutto quello che abbiamo subito. Lei avrà, le capiterà di avere fame, va al frigorifero, apre, trova qualcosa e lo mangia. Succederà che senta un po' più freddo del solito, indossa forse un pullover di più, una sciarpa. Noi non potevamo fare né l'una né l'altra cosa. Per noi freddo e fame erano a far nostro e non avevamo nessuna risorsa in più. Le percosse, mi capita di andare a parlare nelle scuole e dico ai ragazzi: senti un po', tu hai già preso una bella mazzata, ti è capitato che qualche compagno ti ha preso a botte? Per lo più mi rispondono no, mai. Qualcuno mi dice sì, un ceffone da mia mamma. No, non bisogna pensare allo schiaffo della mamma, bisogna pensare a quello che ho vissuto io davanti a me, davanti ai miei occhi, persone completamente abbattute dai colpi e ancora colpite mentre giacevano a terra insanguinate con il sangue che gli usciva dal labbro, dall'arcata sopraccigliare, e ancora bastonate, e ancora presa a colpi di scarpone nella pancia. Scarpone, oppure quello che io chiamo con un termine che è tra il tedesco e il francese, nel mio libro la schlag, insomma, un bastone, un modo, un oggetto per picchiare e per fare male. Non è lo schiaffone che avete visto o vissuto tutti quanti, è proprio una cosa radicalmente diversa. De comprendre exactement ce que l'on a pu vivre, c'est impossible. E questa era Ginette Colincà, che insieme a Marion Ruggeri ha scritto il romanzo Ritorno a Birkenau, pubblicato in Italia da Ponti alle Grazie. Per la traduzione si ringrazia Marina Astrologo. Una breve pausa, poi parleremo ancora di libri. Ci sono 6 milioni e mezzo di persone che in Italia spontaneamente offrono aiuto agli altri. Le loro voci sono spesso lontane dalla ribalta, ma ben sentite da chi chiede aiuto. C'è Gianni, medico in pensione, che cura i senza fissa dimora. Anita, che ogni domenica indossa il naso rosso da clown e va in ospedale per far ridere i bambini. Luigi, che a 18 anni è entrato in carcere per far teatro coi detenuti. Said, che ha scelto di aiutare i rifugiati che arrivano in Italia. Sono Cristina Carpinelli. Ogni domenica alle 14.30 in Diario di un giorno vi racconterò le storie di chi sceglie di tendere la mano, cambiando così il corso delle cose. Storie di generosità e meraviglia, di possibilità e speranza. Naturalmente su Radio 24. Il cacciatore di libri. Considerata negli Stati Uniti l'erede di Jonathan Franzen e Don DeLillo, ha poco più di 30 anni e insegna alla Columbia University. Parliamo di Kathleen Alcott. In Italia è stato tradotto un solo romanzo, È difficile trovare l'America, pubblicato da Solferino con la traduzione di Alberto Cristofori. Un romanzo in cui si raccontano 30 anni di vita in America, dal 57 all'88, quindi c'è la conquista dello spazio, la guerra fredda, il Vietnam, l'AIDS. Questa storia viene raccontata attraverso tre voci. C'è Vincent, pilota dell'aeronautica che si prepara a diventare astronauta, c'è Faye, 21 anni, che abbandona la casa dei genitori ricchi e conservatori. Lei è una pacifista, attivista per i diritti civili, ma finirà per entrare in un'organizzazione estremista. E poi c'è Wright, il bambino che nasce dalla loro breve relazione clandestina. Diciamo che le strade di Vincent e Faye si dividono subito, tanto che Vincent non saprà mai di essere diventato padre. Wright, diventato ormai giovane uomo, scopre che i genitori, ognuno a suo modo, sono stati protagonisti di eventi storici. La madre, appunto, per aver militato in un gruppo sostanzialmente terroristico, il padre perché è andato sulla luna. Ma nel frattempo lui dovrà anche fare i conti con l'esplosione dell'epidemia di AIDS. E allora ecco come Kathleen Alcott descrive i suoi personaggi. Faye has been born into privilege which she has come to reject. Faye è nata in una famiglia, diciamo, molto privilegiata, però ad un certo punto rifiuta questa sua vita e decide di costruirsi una sua propria esistenza, e sulla scia di questo rifiuto della famiglia d'origine ricostruisce in un certo senso il suo proprio insieme di valori, ed è qui che la conosciamo. Decide di non iscriversi all'università perché l'università è un luogo privilegiato riservato a pochi, e decide invece di costruire la sua formazione all'interno di un bar riservato ai piloti nel deserto del Mojave nel 57, un bar fondato dalla sorella. Mojave Desert in 1957. Ed è qui che Faye incontra Vincent, con il quale avrà un figlio, Wright. Però, insomma, sostanzialmente Vincent non saprà quasi mai, diciamo così, di avere questo figlio. Faye è appunto una pacifista e un'attivista per i diritti civili, quindi sullo sfondo di questo romanzo vediamo per esempio le proteste contro la guerra in Vietnam e così via. Ti sei ispirata a qualcuno in particolare? Insomma, come sei riuscita a entrare nella mentalità di una giovane donna, appunto, che negli anni 60 si batteva contro, per esempio, la guerra in Vietnam, ma contro tante altre cose? One measure that I undertook in order to retain a kind of presence of mind rather than a historic interpolation. Un parametro che io ho utilizzato per mantenere quella che io chiamo la presenza mentale nei confronti del personaggio, invece che lasciarmi invischiare in quella che è stata l'interpolazione storica successiva appunto a questi eventi, è stato quello di rivolgermi principalmente a fonti primarie quando mi sono documentata su quel periodo. E solo successivamente mi sono anche dedicata a una lettura di tipo diverso, e cioè una storia, un profilo per così dire, su Diana Hodson, che era morta negli anni 70 durante un'esplosione nel Village, che aveva avuto una vita molto particolare e anche analoga a quella del mio personaggio. Però questo profilo l'ho letto solo dopo che avevo già stilato, diciamo, più della metà del romanzo, proprio perché volevo che Faye fosse veramente una mia invenzione, che nascesse da quello che avevo letto, ma che non fosse basata su nessuno. Anche Diana, come Faye, proveniva da una famiglia molto aristocratica, ricca, e aveva convinzioni prettamente conservatrici. Quando poi questa Diana decide di andare all'università, varca la soglia forte di queste sue convinzioni, di questa sua struttura mentale conservatrice. Poi però finisce per cambiare idea a seconda degli uomini, delle storie d'amore in cui si lascia coinvolgere. Trovo la similarità con Faye nel fatto che anche Faye, malgrado io la dipinga come un personaggio radicale e fortemente liberale, il suo potere in realtà è molto leggero, è molto soft, è molto malleabile. La incontriamo ad un certo punto quando è già una donna sulla trentina, quando quindi si rende conto che il proprio potere sessuale in un certo senso sta venendo meno, ed è proprio quello che accade anche a Diana. Poi appunto ho citato il movimento del Weather Underground. Il loro concetto di base era che l'amore romantico, l'essere legati a qualcuno in particolare, fosse totalmente negativo e deleterio per portare avanti una causa, per essere così radicali, per portare avanti una causa non bisognava interessarsi di nessuno, nemmeno di se stessi. E quindi vediamo queste donne che vivevano in quel periodo, come Diana appunto e Faye, che hanno una vita, un destino praticamente già segnato: figlie di un determinato padre, poi diventano studentesse, mogli e infine madri. E quindi per Diana, così come per Faye, risulta difficile da digerire, da mandare giù questo destino già segnato. Veniamo invece a Vincent. Lui è un astronauta ed è uno degli uomini che mette piede sulla Luna. Lui è consapevole di essere protagonista della storia con la S maiuscola o no? I think that the exactitude of physical behavior. Non dimentichiamo che per diventare astronauti come lui, per compiere una missione così fulgida, era necessario avere una preparazione fisica veramente molto molto specifica. Questi astronauti addirittura si esercitavano ad infinitum, per così dire, per capire esattamente come posizionare i piedi, come scendere i gradini della scala per poi fare il primo passo sulla Luna. Quindi diciamo che c'è una sorta di rigore a cui questi personaggi sono soggetti, a questi astronauti, tale per cui l'ego di questi personaggi finisce per essere meno presente. Proprio per questo in Vincent abbiamo questa rara apparizione di un personaggio che è solipsista ma non narcisista. He's the rare person who is a solipsist but not a narcissist. Nell'arco di questi 30 anni di storia americana abbiamo visto le lotte contro la guerra nel Vietnam, lo sbarco sulla Luna e tanti altri episodi cruciali. Poi si arriva con Wright, che nel frattempo è cresciuto, agli anni 80, San Francisco, l'avvento purtroppo dell'AIDS. Quindi hai voluto toccare anche un altro tema, insomma un altro fatto determinante della storia americana. Come Wright vive questo evento? Wright was the most interesting character in my conception of the novel by far. Sicuramente Wright rappresenta il personaggio più accattivante e interessante che io ho riscontrato, in cui io mi sono imbattuta nel momento in cui ho concepito il mio romanzo, proprio perché probabilmente è quello che sento più vicino, più affine a me. Non dimentichiamo che io provengo da una famiglia, da due genitori che erano giornalisti, che erano dei ferventi sostenitori del movimento contro la guerra, contro le guerre in generale, e che purtroppo sono morti giovani. E quindi io dico sempre che come genitori genitori non ho avuto due persone, bensì delle ideologie, delle idee molto forti e molto radicate. E quindi il problema che io stessa, la questione che mi sono posta nella mia vita è stata: ma come si può diventare se stessi quando si è cresciuti all'ombra di un'ideologia esterna? E questo, diciamo, è lo stesso dilemma con cui si trova a combattere Wright stesso, proprio perché sua madre ha una vita così improntata alla politica, una politica che viene prima del figlio, prima del suo stesso corpo, prima di qualsiasi storia d'amore, che questo personaggio Wright finisce per avere paura di qualsiasi tipo di idea esca esuli dal quotidiano, dalla vita quotidiana. Poi ad un certo punto scopre la propria sessualità, e non dimentichiamo che lui si trova ad essere un giovane gay a San Francisco negli anni 80, quindi perfettamente azzeccato, inserito nell'ambiente e così via, ma questa sua sessualità, questa sua conquista gli viene portata via appunto proprio perché si scatena il flagello dell'AIDS e diventa addirittura una sessualità politicizzata, un fardello pesante da portarsi in giro. E quindi inizia a chiedersi: ma adesso che cosa posso fare? Devo diventare politico in un certo senso? Devo aderire a quella che è la lotta dei miei amici? Ma contemporaneamente scopre di avere troppo timore delle manifestazioni, di esternare se stesso. And repeatedly finds that he is too afraid to demonstrate. Yes, that is my complete answer. Ecco, tu hai detto che ti senti un po' figlia di due ideologie, anche di un modo ideologico di vedere il mondo. Sicuramente gli anni 60 e 70 sono molto diversi dagli anni attuali. Oltre a scrivere un romanzo come questo, in che cosa pensi che l'essere figlia di persone che hanno portato avanti delle ideologie così profonde ti abbia influenzata? That's a very difficult question. Sometimes I find that there is an idea I have in my mind that it's almost like it has... Una domanda piuttosto complessa e difficile. Diciamo che si manifesta in questo modo il mio essere figlia di queste due ideologie. Da una parte sento, avverto che c'è un'idea che io ho nella mente, però a volte capita che questa idea sia lì senza il mio consenso, in un certo senso, come se si fosse ossificata nel mio essere, nel mio corpo, come se fosse stata nel liquido amniotico da cui poi io sono nata. Devo dire che in questo momento politico l'essere figlia di queste due ideologie mi porta ad essere sempre molto cauta e attenta nel scegliere a chi dare il consenso, il permesso di entrare nella mia vita, chi accettare nella mia vita. Quindi, per esempio, non potrei mai uscire con qualcuno che non fosse un convinto femminista, qualcuno che non fosse un forte sostenitore dei diritti umani, che sono estremamente importanti, di primo ordine per me adesso come cittadina americana. E poi mi ritrovo anche negli stessi timori, esitazioni che mi accomunano al mio personaggio di Wright, e cioè ad esempio quest'idea che c'è molto comune negli ultimi tempi dei ragazzi della mia generazione di partecipare a queste chiassose manifestazioni politicizzate per strada, su di me non esercita una grande presa, forse perché io sono maturata, sono cresciuta, ho sviluppato una sorta di cinismo per quello che ho visto che facevano o non facevano i miei genitori, e quindi sono più interessata alla politica come individuo nella vita quotidiana piuttosto che sentire l'elettricità della manifestazione per strada. Policy and awareness of how the country works and thinking about that in a daily and active way. E questa era Kathleen Alcott che ci ha parlato di È difficile trovare l'America, pubblicato da Solferino. Per la traduzione si ringrazia Chiara Serafin. In questa puntata avete ascoltato le interviste a Ginette Colinca per Ritorno a Birkenau, Kathleen Alcott per È difficile trovare l'America. Musiche: colonna sonora del film Schindler's List di John Williams, Air Aquarius di Ronald Dyson. In regia Roberta Frisani e Gianmarco Ferronato. Vi ricordo che trovate queste e le altre puntate del Cacciatore di Libri in podcast su radio24.it. Se volete sempre essere aggiornati su quello che stiamo preparando per voi, potete seguirci sui social, su Facebook, la pagina ufficiale Il Cacciatore di Libri - Radio24, e anche su Instagram come Cacciatore di Libri senza l'articolo Il. Una buona lettura da Alessandra Tedesco.